Io sono in tintoria a fare la fila per consegnare due maglioni e due paia di pantaloni da rimettere provvisoriamente a nuovo. E la fila, come succede a tutte le file, a tutte le code grandi o piccole in cui mi capita di trovarmi, è assolutamente immobile. La signora che è già arrivata al bancone, la capofila per così dire, ha già consegnato la sua mercanzia, ha ritirato lo scontrino, ma non si decide a togliersi da torno. Ha avviato una controversia con la commessa sul pagamento dovuto. Nella tintoria dove vado io non si sa perché si paga in anticipo. E specificamente a proposito di un biglietto da 2000 lire. Lei quel biglietto lo ha consegnato, sostiene, lo ha consegnato insieme a due monete da 100, infatti gliene vengono 500 di resto. Ne è sicurissima, anzi guardi lei stessa la commessa, nel borsellino biglietti da 2000 non ce ne sono, quando è uscito da casa ce n'era appunto uno, non si è fermata da nessun'altra parte. E la commessa a sua volta è graneticamente certa che quelle 2000 lire lei non le ha viste neanche dipinte. Sì, le due monete da 100 le ha ritirate, quella da 500 per il resto è già lì pronta in mano. Ma la signora quelle 2000 lire non gliele ha proprio date. D'altronde è facile da verificare, basta aprire il cassetto del registratore, biglietti da 2000 in bella vista non ce ne sono. Ma no, dice la signora, guardi, gliele ho proprio date, lei stava graffettando le etichette su quel maglione là, forse, distrazione, succede, l'ha messa da qualche altra parte, cerchi bene, non vede che nel mio borsellino biglietti da 2000 non ce ne sono? E entrambe svolgono un certo numero di navigazioni sul tema finché la commessa, probabilmente pensando che con i tempi che corrono una cliente è sempre una cliente, poi ci sono gli altri in coda che potrebbero cominciare a seccarsi, borbotta cidina, se proprio dice che me le ha date, molla il pezzo da 500 e l'altra se ne va tutta soddisfatta, ma anche un po' impettita, come a dire, ma guarda un po' che cosa mi deve capitare. Il suo trionfo, peraltro, il suo trionfo si ripercuote nell'immediata disfatta della signora che viene dopo di lei. Costei esibisce una gonna macchiata e spiega che l'ha ritirata proprio il giorno prima, proprio lì, e a casa l'ha trovata completa di macchie tutto. E tra le macchie, per di più, ce n'è una che prima della consegna assolutamente non c'era. E la commessa è altrettanto sicura che no, loro un capo con macchie di quel genere non lo restituiscono mai, se proprio non vanno via ci mettono un apposito bigliettino. E poi, insomma, basta un po' di competenza per capire che quelle sono tipiche macchie da lavaggio ad acqua e loro quel tipo di tessuto lo lavano esclusivamente a secco, e ci mancherebbe altro. E subito, con l'aria di chi ha detto l'ultima parola, la commessa si rivolge a un giovanotto in attesa, si fa consegnare la sua borsa di indumenti e, in definitiva, questa volta è la cliente che se ne va con le pive nel sacco e l'espressione crucciata di chi non ha ottenuto soddisfazione e forse cambierà tintoria. E forse no, naturalmente, perché in fondo sa benissimo che episodi del genere possano capitare dovunque, oggi a me, domani a te, e la cosa importante è battersi bene, non farsi mai mettere docilmente i piedi sul collo. E io che non sono proprio mai sicuro di niente, che se mi avessero fatto il ragionamento delle 2000 lire sarei arrossito come se mi avessero scoperto in flagrante tentativo di truffa e avrei cacciato immediatamente la lira, e io che di fronte a qualsiasi contraddizione, un oggetto che non si trova, un conto che non torna, un'informazione mal interpretata, penso subito che probabilmente la colpa è mia, io le invidio terribilmente tutte e tre. Le invidio per la loro sicurezza, per la loro mancanza di dubbi. È ovvio che nei due confronti a cui ho assistito una delle parti aveva torto marcio, e ce lo assicura non solo il buonsenso ma quel principio del terzo escluso che da Aristotele in poi è uno dei pilastri della logica occidentale, ma entrambe tre, non so come si dice, erano solidamente convinte di aver ragione, e chi ha ceduto non perché fosse persuaso del proprio torto, ma in nome di tutt'altre considerazioni. Perché non è riuscito a sfoderare altrettanta grinta della controparte, perché non poteva tirare avanti all'infinito, perché aveva altro da cui occuparsi, e soprattutto in considerazione della propria posizione di forza contrattuale. La prima cliente, quella che ha avuto ragione, aveva dalla sua il vantaggio di occupare una posizione strategica, con la possibilità di bloccare l'accesso degli altri clienti. La seconda, da questo punto di vista, si è trovata spiazzata. E inoltre era indebolita dal principio formale non sostanziale, per cui le contestazioni sulla qualità del lavoro svolto vanno fatte alla consegna e non il giorno dopo, eccetera. E così, mentre faccio la fila in tintoria, ho risolto anche il problema che mi assilva da quasi una settimana di come hanno fatto a condannare Pacciani. Perché, vi giuro, io non ho seguito quel processo, detesto la cronaca nera, non sopporto delitti e ammazzamenti vari, amo i gialli soprattutto perché so che le malefatte più atroci che vi sono descritte sono tutte rigorosamente immaginarie. Ma mi sembra di aver capito, da quel poco che ho visto, che qualche dubbio sulla colpevolezza dell'imputato comunque c'era. E ciascuna delle due ipotesi opposte qualche argomento a proprio favore ce l'aveva, e magari una era più forte dell'altra, non lo nego, ma come diavolo hanno fatto giudice e giurati a superare la barriera del dubbio? Mi spiego. Il dubbio, ne converrete anche voi, è implicito in situazioni del genere. L'articolo 580-530 del codice di procedura penale prescrive l'assoluzione anche quando la prova che il fatto sussiste o l'imputato l'abbia commesso, manca, è insufficiente o contraddittoria. E se una cosa è contraddittoria, la contraddittorietà non si misura a peso, dovrebbe essere sufficiente la più piccola contraddizione, la minima smagliatura nella ricostruzione dell'accusa per in generale quel minimo dubbio che in teoria dovrebbe portare ad assolvere. E qualche smagliatura in quell'impianto lì doveva ben esserci, no? Se i giurati hanno escluso un duplice omicidio su 8, anche questo è una contraddizione, e lo stesso procuratore capo, dopo aver fatto condannare Pacciani in base a una ricostruzione che lo vedeva agire sempre da solo, adesso si mette a dire che bisogna cercare i complici, che è una precauzione ragionevole, è una precauzione ragionevolissima per chi si ricorda che il suo ufficio ha già fatto arrestare in un caso condannare 3 o 4 disgraziati con l'accusa di essere il mostro e poi ha dovuto lasciare andare perché gli ammazzamenti ricominciavano. E a questo punto ipotizzare un complice ancora in libertà è un ragionevole modo di mettere le mani avanti, sanando in anticipo qualsiasi possibile contraddizione che potrebbe presentarsi in futuro, che è una ipotesi metodologica a cui probabilmente il vecchio Kuhn non ha mai pensato. Ma insomma, i complici di solito si individuano prima di mettere uno sotto processo, non a condanna pronunciata. Ecco. Io non credo che in Italia si faccia, ma negli infiniti procedural thriller che mi capita di leggere o di tradurre, il giudice, prima che i giurati si ritivino a deliberare, spiega sempre che in caso di dubbio, di qualsiasi dubbio sulla colpevolezza, devono dichiarare l'imputato appunto non colpevole. Qui da noi i giudici sono un po' meno signorili. I giurati da soli in camera di consiglio non ce li lasciano, ma il principio che in dubbio si debba essere pro reo dalla parte dell'imputato fa parte, credo, anche del diritto romano. E non venitemi ad obiettare che l'applicazione rigorosa del principio di nessun dubbio comporterebbe l'assoluzione automatica di tutti gli imputati, perché è vero, in effetti. In effetti io non ricordo qualsiasi processo controverso in cui io non mi sia trovato dalla parte degli innocentisti, da quello Fenaroli in poi. Ma questo è appunto il problema. Perché in questa circostanza, stando così le cose, non si può che presumere che la condanna sia pronunciata, che le condanne in genere vengano pronunciate in base a qualche altra considerazione che non la certezza di come sono avvenuti i fatti. Considerazione che non staremo a discutere, non voglio discutere, magari possono avere una loro ragionevolezza, possono avere persino una loro necessità, ma hanno comunque in comune la caratteristica di non essere dichiarate. Tra i commentatori della sentenza Pacciani, il giorno dopo, soltanto uno, il direttore del Giorno, mi sembra, ha avuto il coraggio di dichiarare che lui Pacciani l'avrebbe condannato comunque, anche in assenza di qualsiasi prova di colpevolezza, e che d'altronde lui assolverebbe Muccioli anche se di prove ce ne fossero a iosa, a bizzeffe, il che suppongo è quello che succederà la settimana prossima. Ma la sua non deve essere una posizione così isolata, perché dubbio e certezza, pensiamoci bene, non sono categorie gnoseologiche, non sono neanche categorie psicologiche, sono a tutti gli effetti categorie ideologiche. E come tutte le categorie ideologiche, ciascuno le applica agli oggetti a cui ritiene opportuno applicarle e agli altri no, per avvalorare quello che sente bisogno di avvalorare. Come la cliente della tintoria che non trova le sue 2000 lire nel borsellino e la commessa di fronte alla gonna macchiata, noi siamo soprattutto sicuri di quello che ci fa comodo. E ammetterete anche voi che un mostro in galera fa più comodo di un mostro in libertà, e se poi tornerà a colpire vorrà dire che aveva dei complici. Move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it Oh.